letto dentro al mio letto, ma voglio dormire, me ne fumo un altro etto. È stato bello fare l'amore, ma adesso togliti, non voglio più il tuo calore. Sono il cellulare, adesso devo andare, non mi guardare mentre mi vesto, come se fossi affascinata ad ogni gesto. Donna, ho la mia vita, lascia te il compromesso. In mezzo alle macerie corsi la tua mano, più per pietà, e sai bene che non ti amo. Vuoi le storie, principessa e cavaliere, ma questa è la realtà, troie zoccole d'un puttaniere. Ti ho trovata nel fondo di un bicchiere, bevendo l'ultima goccia del mio dispiacere. E adesso il cielo è grigio per nostra colpa, verrà la pioggia su di noi lavando questa macchia. Quando non avrò niente da dire, quando non avrò niente da fare, sarò mille chilometri lontano dal tuo cuore, dove nasce il sole e la speranza muore. Quando non avrò niente da dire, quando non avrò niente da fare, sarò mille chilometri lontano dal tuo cuore, dove nasce il sole e la speranza muore. Il mondo gira grazie ai soldi e all'amore, io non ho entrambi e guardo da spettatore. Quindi con me non tateggiare da regina, non seguo su sto trono, è tutta fantomima. Quando me ne andrò guarderai la foto, ricorderai la passione, il fuoco, ma non l'amore. Quello è solamente un gioco, stai con me perché il vuoto stringe poco a poco. Un giorno me ne andrò, non mi vedrai, non parlerò, già ti scorderai. I nostri guai già saliranno uno dopo l'altro, uccido il tiranno e loro non ci avranno. Almeno questo oggi io lo prometto, quanto è vero l'odio che porto dentro al petto. Scrivi sul diario che non sono nessuno, oggi vale me, non ti amo, che è un vaffanculo. Quando non avrò niente da dire, quando non avrò niente da fare, sarò mille chilometri lontano dal tuo cuore, dove nasce il sole e la speranza muore. Quando non avrò niente da dire, quando non avrò niente da fare, sarò mille chilometri lontano dal tuo cuore, dove nasce il sole e la speranza muore. Ti lascio un biglietto prima di andare, quando sei vestita di te non so che fare. Addio, il futuro è di chi lo sa conquistare. Un bacio e ci vedremo al mio funerale. Sarai l'ennesima che di me parlerà male, per togliersi il gusto amaro di ciò che rimane. Io cercherò oro nel mio destino fittizio, l'inizio di storie nuove, l'ennesimo supplizio. So bene che non capirai le mie parole, non basta dire amore quando sono altrove. Non voglio stare in mezzo a queste persone che odiano e gridano amore. No amore, no amore, no amore. Quando non avrò niente da dire, quando non avrò niente da fare, sarò mille chilometri lontano dal tuo cuore, dove nasce il sole e la speranza muore. Quando non avrò niente da dire, quando non avrò niente da fare, sarò mille chilometri lontano dal tuo cuore, dove nasce il sole e la speranza muore. Quando non avrò niente da dire, quando non avrò niente da fare, sarò mille chilometri lontano dal tuo cuore, dove nasce il sole e la speranza muore. Quando non avrò niente da dire, quando non avrò niente da fare, sarò mille chilometri lontano dal tuo cuore, dove nasce il sole e la speranza muore.